benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sulle 87.9, sono le 15.02. Questa è Tracce di Cinema. Stiamo per iniziare con un po' di difficoltà perché Federico oggi mi ha fatto un regalo, mi ha regalato del vino. Buono il vino, è un po' forte. Io l'ho provato, vino. Mi è sembrato ottimo. Quindi, se volete passare in radio a bervi un bicchiere di vino, lasciare una sottoscrizione, noi ve lo offriamo volentieri e vi aspettiamo. Cerco di rimettere insieme le idee. Sì, anche perché ti vedo stranamente tranquilla. Sì, è vino. Ti fa bene. È vino. Ti fa bene, sì, il vino. Sì, mi fa okay. Benissimo. Ebbene, insomma, Tracce di Cinema 15.02. Iniziamo. Oggi grandissimo ospite, grandissima emozione. Credo che arriverà qua in studio con noi. Beh, è davvero una grande emozione. Ultimamente Federico veramente non si sta a far parlare dietro, come poi si dice, te ne dirò fuori uno dietro qua l'altro, a Roma, dai CCCP a che insomma pionieri della musica e degli autori di colonne sonore memorabili, e fra due giovedì vabbè, che non ve lo diciamo, non anticipiamo, che poi porta pure un po' sfiga, magari non riusciamo a metterla a portarla a casa questa vittoria, però insomma ci stiamo provando, stiamo lavorando per avere un altro ospite importante, ma l'ospite importante di oggi è veramente importante, è una grande emozione, spero che ci raggiungerà come mi ha promesso. È Teo Teardo, classe 1966, colonne sonore che vi devo dire commissionate dai registi più importanti del cinema italiano dei nostri giorni, Gabriele Salvatore, Paolo Sorrentino. Scusate, sono emozionata. Non è il vino, è l'emozione. Veramente emozionata. Gabriele Salvatore, Paolo Sorrentino, Andrea Molaioli, Guido Chiesa, Daniele Vicari, Stefano Incerti, Claudio Cupellini e tantissimi altri. È veramente autore delle più belle colonne sonore che sono state fatte, ha vinto centinaia di premi che non vi so a elencare. Abbiamo avuto tantissimi compositori, tantissimi grandi autori di colonne sonore in queste siamo stati fortunati, insomma, che hanno voluto partecipare a questa trasmissione all'interno di questa radio. Che insomma della quale far parte anche per le persone che vengono è un onore, quindi insomma sono stati ben felici di partecipare e di venire a trovarci. Ecco, però Teo è insomma, diciamo, rispetto a tutti gli altri forse qualcosa di più, qualcuno che è un autore, un musicista che è riuscito a non solo a creare musica perfettamente sinergica con le immagini cinematografiche, ma a creare una musica che le sposa queste immagini, e le sposa facendole diventare da musica proprio immagini mentre le si ascolta. Oltre al cinema, Federico, tu già sai che ha lavorato per altri tipi di sonorizzazioni, per il teatro, spettacoli teatrali, per esempio pluripremiato Bally Turk, e poi la retrospettiva bellissima musicata sulle immagini dei tre film ispirati insomma alla fotografia di Man Ray, Music for Wilder Man. Insomma, ha lavorato tantissimo, ha fatto tantissime cose, è un personaggio straordinario, poi speriamo di poterci parlare dal vivo. Intanto iniziamo con la musica, iniziamo con un pezzo che riguarda un film di cui Teo Teardo ha curato la colonna sonora, Una vita tranquilla, film del 2010 diretto da Claudio Cupellini con Tony Servillo. A mio avviso, Federico, lo so, sono sempre un po' rompiscatole, però forse un po' complice il fatto che ci sia Tony Servillo, o comunque anche un po' alla storia, mi ha ricordato un pochino insomma un po', l'ho trovato un po' simile dal punto di vista della regia, della storia, della sceneggiatura, le conseguenze dell'amore di Sorrentino, però è una mia idea critica. Oggi conta più la musica. Oggi conta più la musica, e partiamo proprio così con questo pezzo tratto da Una vita tranquilla del 2010 di Teo Teardo, Hat Hat Hat. Thank you. abbiamo ascoltato un pezzo tratto dalla colonna sonora del film Una vita tranquilla. Ecco, non mi confondere che già ho bevuto il vino, cioè vedo tutto quanto doppio, dai, su. E, bellissima, bellissimo pezzo, scritto da Teo Teardo, il nostro ospite di oggi. Il prossimo pezzo invece è tratto da un altro film, Lavorare con lentezza, Fede, 2004, diretto da Guido Chiesa, da lui stesso sceneggiato insieme al collettivo Wuming, che è un collettivo di scrittori provenienti dalla sezione bolognese di Luther Bliss Project, che è un progetto che insomma era negli anni 90, è divenuto celeberrimo per il romanzo Q, i cui interpreti erano Claudia Pandolfi e Valerio Mastandrea, che lo aspettiamo qua al varco e lui sa, se sta ascoltando, perché lui capirà. Grande Teo, è arrivato. è arrivato. C'è un microfono per lui. Mentre stiamo qua parlando di te, ben arrivato Teo. Buongiorno. Adesso si mette le cuffie, si mette di fronte al microfono. Stavo presentando Teo il prossimo pezzo di Lavorare con lentezza, di cui che magari ci dici tu come si pronuncia, perché noi avevamo un dubbio. E volevo parlare un secondo di questo film. È basato su una storia vera, la storia di Radio Alice, una delle prime radio di movimento italiane, nate a Bologna negli anni 70 dal desiderio proprio di un gruppo di ragazzi intenzionati a dare voce a chi non ha voce. Siamo nel 1976, via Pratello numero 41, c'è Radio Alice, la radio del movimento studentesco. La storia di questa radio si intreccia con quella di Squalo, Tommaso Ramenghi e Pelo Malco Luisi, che di estrazione proletaria, due ragazzi molto semplici, non avevano prospettive per il futuro e sbarcavano il lunario facendo qualche lavoretto in giro, quando qualcuno gli propone di scavare un tunnel sottosuolo della città per rapinare la cassa di risparmio di Piazza Minghetti. Vi ricordo un po' un film. I due ragazzi conoscono Radio Alice mentre fanno appunto questo scavo, che diventa la loro colonna sonora, e poi a un certo punto si stufano di scavare, di lavorare, e vanno a scoprire chi sono questi Radio Alice. Bellissima la costruzione narrativa, composta da tecniche di riprese tutte diverse, quasi da videoclipparo, e bravissimi i protagonisti, che sono per la prima volta al cinema e hanno anche, mi pare, vinto un paio di premi importanti. Semplice la sceneggiatura, ma insomma molto naturale, insomma non ci si annoia mai, è bella, sostenuta e curata, così come tutto il film. Nei minimi particolari, proprio le vicende raccontate sono vere, rintracciate dal regista e dal collettivo Wuming sui giornali dell'epoca, e quindi l'avventura di Squalo e Pelo, i due protagonisti di questo film, nel loro tunnel racconta la vera storia di una banda criminale che venne poi catturata ancora prima di riuscire a realizzare la rapina progettata. Va bene, come direi che è perfetto. Ci siamo? Senti, la pronuncia a questo punto del brano. Munifried. Dai, okay. lo facciamo, ve lo facciamo sentire e ci risentiamo fra poco. Thank you. Eccoci. Allora, siamo ancora qua in diretta dagli studi di Radio Onda Rossa, 15:17, con noi Teo Teardo. E beh, io avevo preparato una lunga presentazione su di lui, ma insomma, magari piano piano, Fede, gli facciamo qualche domanda. Intanto volevo presentare insieme a te, Teo, se sei d'accordo, questo bellissimo pezzo che si intitola Millions of You Just Like You, tratto dalla Nave Dolce, un documentario del 2012 diretto da Daniele Vicari. Non lo introduco con le mie parole, ma lo voglio introdurre con le parole di questo giornalista bravissimo che ho trovato su internet, Giancarlo Zappoli. L'8 agosto 1991 una nave albanese carica di 20.000 persone giunge nel porto di Bari. La nave si chiama Vlora. A chi la guarda avvicinarsi appare come un formicaio brulicante, un groviglio indistinto di corpi aggrappati gli uni agli altri. Le operazioni di attracco sono difficili. Qualcuno si butta in mare per raggiungere la terra ferma a nuoto. Molti urlano in coro: Italia, Italia, facendo il segno di vittoria con le dita. Il 7 agosto è iniziato tutto, del 1991, la nave di ritorno da Cuba arriva al porto di Durazzo. Sono in corso le operazioni di scarico quando una folla enorme di migliaia di persone assale improvvisamente il mercantile, costringendo il capitano Halim Malaki a fare rotta verso l'Italia. Sono passati molti anni da quel giorno. La maggior parte di coloro che salirono sulla nave carica di zucchero, è per questo che il titolo della nave, il titolo del film è questo, ossia La Nave Dolce, vennero rispediti in Albania, ma gli sbarchi continuarono. Attraverso molto materiale di repertorio, Daniele Vicari ha potuto far rivivere ciò che era finito in un archivio grazie alle testimonianze di chi, per le ragioni più diverse, era salito sulla Vlora sperando oltre ogni speranza. È un viaggio nel tempo che trasforma la massa apparentemente minacciosa appollaiata ovunque sulla nave in uomini, donne, bambini, ognuno con la propria storia, ognuno tornato per forza a casa sua o in un posto in cui la casa probabilmente neanche c'era e non c'era niente, ma comunque è stato costretto a tornare, è stato rideportato nella propria terra. Questo è un film vecchio, Teo, di qualche anno fa, ma insomma talmente attuale. Mi hanno emozionato queste parole, mi emozionano ancora adesso che le sto rileggendo. E beh, mi viene chiaramente da chiederti, prima di sentirlo poi, questo brano bellissimo, cosa, insomma, hai visto queste immagini prima di comporre le musiche, sono state evocate durante, insomma, la visione delle immagini di Daniele Vicari, oppure insomma hai sentito un'ispirazione anche al di là delle musiche, non lo so, delle immagini, perdonami, scusa. No, ho scritto tutta quanta la musica senza vedere assolutamente nulla. L'idea di base era che nel film la musica avrebbe iniziato e finito il film, ci sarebbe sempre stata per tutto quanto il film. E una volta che Daniele mi ha raccontato la storia, ho cominciato a immaginarmi delle possibilità per raccontarla con la musica, col suono anche. E così è andata. E ho scritto circa un'ora di musica per questo progetto, l'ho mandata a Daniele e mi ricordo ancora la telefonata che mi fece dicendo: ma com'è che fai a fare sta cosa? Che, cioè, si parla di un film, ti spiego un'idea e poi arriva la musica è proprio adatta per questo film senza ancora che tu l'abbia visto, no? E io penso che però in realtà non sia necessario averlo visto il film, ma sia necessario capire di cosa si sta parlando. Anche per entrare... Daniele in questo è molto bravo. Certo, ne abbiamo parlato alla pizzeria Formula 1 qui di fianco, proprio è passato a prendermi in studio e mi ha detto: guarda, ti voglio raccontare questa cosa. E allora abbiamo detto: raccontiamocela vicino a una pizza. Ed è andata così, e ne abbiamo parlato molto, a lungo, e in qualche modo la sua grande abilità di trascinarti dentro la storia, perché un regista deve innanzitutto saperti raccontare qualcosa. Mi ha proprio catapultato nella nave. E poi ovviamente c'è stato tutto un lavoro di montaggio, di editing molto, molto forte, anche nelle musiche del film. È stata un'esperienza significativa, anche perché poi, per complicarsi la vita, contemporaneamente stavamo lavorando anche un altro film, lui e io, che era Diaz, che è un film piuttosto complesso. E quindi ci siamo trovati a lavorare a due progetti così impegnativi contemporaneamente. È stato un periodo micidiale, anche molto, molto difficile. Intenso. Sì, molto. Ma anche estremamente significativo, insomma, sono cose che le ho ancora addosso e le rifarei immediatamente. Poi la ascoltiamo anche un pezzo di Diaz, era nella scaletta, Teo, l'abbiamo scelto insieme ieri notte, mi sa. Già. E bene, va bene, allora dai, sentiamoci. Partiamo. Questo pezzo e io vado a prendere il vino poi. Perfetto. Millions of You, Just Like You, dalla Nave Dolce di Daniele Vicari. Teo Teardo, di nuovo benvenuto con noi a Tracce di Cinema. Una telefonata ora ci chiedeva del tuo rapporto con Blixa, quell'album realizzato insieme. Dici un po', Teo. Che tra pochi giorni torno a Berlino, che stiamo lavorando a dei brani nuovi che stiamo scrivendo e questa cosa ormai va avanti da diversi anni. E ne sono molto soddisfatto e felice. È un progetto che ha avuto un feedback molto forte, anche superiore alle aspettative per entrambi. Ha sorpreso sia me che anche lui. E, beh, ricordiamo che Blixa Bargeld è membro dei Bad Seeds. Fu membro dei Bad Seeds. Di Nick Cave è comunque il cantante del Neubauten, uno dei gruppi in assoluto più importanti degli ultimi 30-40 anni. Il lavoro che abbiamo fatto assieme è che... Com'era partito tutto? Abbiamo iniziato a fare un progetto a teatro assieme. Avevo scritto un progetto che si chiamava Ingiuria con la compagnia di teatro di Cesena, la Societas Raffaello Sanzio. E nonostante l'esperienza fu con la Societas fu davvero molto deludente, però c'era anche Blix, l'avevo invitato a collaborare con noi e poi noi abbiamo continuato a dialogare e abbiamo lavorato a una canzone per una colonna sonora di un film che si intitolava Una vita tranquilla, E poi dopo aver fatto quella canzone Blix mi ha detto: ma perché non facciamo un album intero? E quindi un po' di tempo dopo ero a Berlino e poi in realtà è venuto anche lui qui da me in studio, che lo studio è proprio qui dietro di voi, e ci siamo trovati a lavorare tantissimo sia a Roma che a Berlino, e abbiamo fatto il primo album che era Still Smiling, poi abbiamo fatto nel frattempo un EP, un altro album, adesso stiamo scrivendo del materiale nuovo, ed è un processo che non si ferma mai, abbiamo registrazioni e tour in continuazione. Con quale vogliamo proseguire, Otti? Con uno dei pezzi più oscuri forse. È una gara dura trovare il brano oscuro. Da Diaz dici? Danerissimo l'album che avete firmato insieme. Sì. Ok. Teo Teardo insieme a Blixa Bargeld. Cos'era questa? Nerissimo. The Beast, The Beast. Sì, The nerissimo, Beast. Nerissimo, un album firmato da Teo e da Blixa nel quest'anno, è uscito ad aprile del 2016. Fresco, fresco. Io ero curioso, non so se. Curioso del tuo rapporto che hai sviluppato anche nel corso del tempo con il teatro. Sì, è cominciato casualmente con la società Raffaello Sanzi, è stato il primo. Quella fu la prima. Sì, il primo lavoro che ho fatto proprio, anche se prima poi ho fatto una cosa con i Motus che si chiamava Rooms. Silvia Calderon. E poi con loro. Però con loro non è stata un'esperienza soddisfacente, anche dal punto di vista umano. Ah, mi sembrava. Mi hanno deluso davvero molto. E quindi ho pensato proprio di allontanarmi da lì. Ho avuto anche altre proposte per il teatro, ma ho proprio fatto un passo indietro. Ah. E poi un giorno ricevo una mail. Attraverso il mio sito mi arriva una mail da Enda Walsh. Io rimango già così, dico, ma vedi l'indirizzo, il suo nome, dice, ma perché questo mi scrive? E mi dice: ciao, mi chiamo Enda, sono 2 mesi che ascolto un tuo disco che era Wilderman, lo ascolto in continuazione, mi ha ossessionato e ho scritto questo pezzo che si chiama Bally Turk, una commedia, vorrei portarla in scena, ti va di lavorare con me? E due giorni dopo ero già a Londra e stavamo parlando come lavorare alle musiche di questo progetto. E con Enda poi non ci siamo più fermati, abbiamo fatto un altro progetto quest'anno che si chiama Arlington e tra una decina di giorni torno a Londra perché abbiamo un'altra cosa che sta per cominciare e, con un attore straordinario che è Cillian Murphy, che magari qualcuno in Italia ha visto in Batman o nell'ultimo film di Ron Howard, però insomma è un attore gigantesco, proprio bravissimo. E questo è proprio amore, è amore istantaneo, nel senso più bello del termine, è proprio un'esplosione di cellule che ci ha coinvolto. Tanto che quando c'è stata la prima al Festival di Galway in Irlanda quest'anno di Arlington, Enda era talmente soddisfatto delle cose che abbiamo fatto assieme che mi ha detto: senti, io non so mica più cosa fare con te adesso, cosa faccio? Dai, fammi sentire della musica, poi ci scrivo qualcosa intorno. Così. E questo ovviamente dopo diverse Guinness a festeggiare in un pub irlandese. Io sono friulano e i friulani si vantano di bere molto, però davanti agli irlandesi siamo davvero delle schiappe. E così mentre ero lì mandavo dei messaggi ai miei amici dicendo: noi non si vale assolutamente nulla in termini di alcolici qui. E io sono già polverizzato nel pomeriggio e questi invece sono ancora lucidi e vanno avanti per ora. Ed è stato speciale questo incontro che ho avuto negli anni in Irlanda. C'è questo festival di Galway che, perché si parla del teatro, della musica, però c'è una componente umana che tiene tutto quanto in piedi, altrimenti le cose non avrebbero la forma che hanno, almeno nel mondo che piace a me. Mi sono ritrovato per una serie di combinazioni 3 anni di fila a suonare a questo festival, sì. Per 2 lavori con Enda e un altro lavoro e anche per la Retour à la Raison, il progetto che ho fatto su Man Ray. Il direttore del festival mi dice: senti, ma non so mica, cioè, vuoi venire anche il prossimo anno, cosa facciamo? Ma io, però al momento non ho niente da proporre. E lui fa: vabbè, chi se ne frega del festival, vieni a trovarci lo stesso, no? Vieni, stai qui con noi. E questa è una sensazione di casa, di famiglia, di vicinanza, di prossimità, che per me è fondamentale nella musica. Sì. Faccio fatica a pensare alla musica diversamente da lì, cioè proprio è un incontro delle persone. E quindi ovviamente quest'anno torno a Galway, ecco. Quindi se mi chiedi del teatro io ti posso rispondere con questo, nel senso proprio c'è questo che mi interessa. Ad esempio questa era la componente che mi era mancata in altre situazioni. Non dico che si debba sempre diventare amici, fratelli, cugini, però in passato avevo sentito una sorta di gelo freddo che io mi allontano. Otti, c'hai... No, questo insomma per passare a... questo mi incanta Teo quando parla. Per passare a parlare di questo lavoro che insomma hai fatto, Le Retour à la Raison, musique pour 3 films de Man Ray. Sì. Io ho scelto questo pezzo che si chiama L'Étoile de Mer. E è un pezzo straordinario, ne ho sentiti un paio di quelli che un paio, due, tre, quelli che mi avevi mandato. Questo l'ho voluto mettere perché è molto bello e vabbè, anticipo un po' di cose. 10 chitarre, una sega, sì. Synth, piano elettrico, ocarine, campane tibetane e tanto altro per creare questa sinfonia, no? Io non la chiamo brano o pezzo musicale, la chiamo proprio sinfonia, perché è una sinfonia che ti trasporta in un sogno. Avete dell'LSD a casa? Potete prenderlo. Andiamo. Sfumiamo. Sfumiamo è ancora lunga, io l'avrei ascoltata, l'avrei messa in loop per ore e ore. La lasciamo qua in sottofondo, guarda. Sulle frequenze di Red Onda Rossa, non so se gli ascoltatori sarebbero contenti, ma so che c'è uno ascoltatore in ascolto. E sono molto fiera di star baffa che lo sta a Rosicà, che ho qua a Teo Teardo qua a Tracce, no, di Cinema. Sono contento piuttosto. E ha telefonato perché vuole parlare un po' di te. Teo vuole che parliamo un po' di te e di ciò che tu hai fatto in passato, dal punto di vista che ti ha chiesto. Noise DJ Noise. Elettrodo sapere. DJ Elettrodo, esattamente, a Rosicone. Dei miei trascorsi Noise. Beh, in realtà quello che è trascorso poi non è finito, no? Nel senso che porti con te delle tracce rumorose costantemente in quello che fai. E questo riguarda proprio anche il mio presente. Poi ovviamente le cose si evolvono, perché si cambia, non è che uno sta sempre nello stesso punto. Quindi certe cose prendono un'altra forma, ma hanno ancora dei punti di contatto con quello che è successo in passato. Ma insomma, per farla breve, il mio primo disco l'ho fatto che avevo 18 anni, credo, forse anche 17-18. E, come strumenti utilizzavo una lavatrice, un martello pneumatico, dei trapani, martelli vari, molta ferraglia. Avevo soltanto un microfono e un eco. E, non avevo ancora la patente, ho chiesto a mia mamma di accompagnarmi in un ferri vecchi, dove con la 126 abbiamo caricato nel portapacchi sopra due lavatrici pressate e le ho portate nel garage dei miei, e lì ho cominciato a registrare queste cose qui, perché quello che avevo a disposizione era quello, non c'era altro. E mi ricordo che abbiamo speso 4.000 lire. E 4.000 lire, c'erano due lavatrici pressate, dei cerchioni, diversi pezzi di ferraglia, di lamiera, e ho cominciato così a far musica. Ho cominciato a far musica senza nemmeno sapere assolutamente come si facesse. E, però una cosa era molto chiara per me, che volevo continuare a farla, volevo fare dei dischi, perché mi sembrava che i dischi fossero il contenitore perfetto per la musica che mi interessava. E sono ancora qui, 30 e passa anni dopo, a fare questo, in forme e in modi diversi, ma assolutamente connesso con quello che siamo stati, non soltanto io, ma anche le persone che erano vicino a me, dalle quali ho assorbito molto. È un percorso di scambi, questo, proprio, devo dire, emoscambio sarebbe un nome adatto, proprio una trasfusione costante delle persone che ti sono state vicine, degli amici, dei collaboratori. Abbiamo parlato degli inizi, Teo, a questo punto il rapporto con il cinema come nasce? Come vuoi che nasca il rapporto col cinema? Il cinema a Roma, il cinema in Italia si fa a Roma, e il cinema è uno degli ambienti più chiusi, familisti che esistano. È una fortezza inespugnabile, quindi ci puoi entrare soltanto per due modi: o perché qualcuno ti raccomanda ed è amico di un amico, oppure per caso, perché qualcuno si sbaglia e si trova davanti quello che fa, ed è quello che mi è successo. Il primo film a cui ho lavorato, che era anche una grossissima produzione, era quello di Denti, il film di Gabriele Salvatores. Gabriele semplicemente ha sentito un mio disco che avevo registrato un paio d'anni prima, l'anno prima, a New York, e si era appassionato di questo disco qui, e quindi mi hanno chiamato per lavorare al film, e nella casualità più totale, e anche grazie alla sua curiosità e apertura, che non sono mai scontate, insomma. Sì. Mi fa ridere pensare che mentre preparavo la trasmissione e ascoltavo la tua musica pensavo a Elettrodo e di cui ascolto sempre la trasmissione, che è una delle, fa due trasmissioni, una più bella dell'altra, io sono una sua grande fan e lo ascolto sempre, e l'ho pensato e mi ha fatto ridere questa telefonata che è arrivata, quindi, perché proprio io quando ti ho mandato quel messaggio, no, quell'email, ti ho scritto mi piacerebbe sentire qualcosa delle tue cose estreme, no? di elettronica estrema, perché proprio pensando a te ho pensato a Elettrodo e ho pensato a quanto sono estreme spesso le sue trasmissioni, e quanto mi piacciono, quanto sono potenti, e ho pensato a queste, non so perché mi hanno evocato queste due lavatrici sopra il portabagagli sopra la macchina di tua madre, già sapevo che c'erano queste due lavatrici, e proprio quello volevo che tu mi mandavi, ma invece mi hai mandato delle cose più dotte, che vabbè. Poi magari facciamo una trasmissione con Elettrodo, con le lavatrici e i trapani. Io però ho anche delle perplessità su questo, nel senso che penso che la mia musica adesso sia molto più dura di quanto lo fosse quando usavo un martello pneumatico. perché dipende sempre anche a chi parli. E all'epoca si parlava soltanto una cerchia di convertiti, dove vedere uno che si rotolava sul palco tirando petardi con una lavatrice era assolutamente normale, accettato e comprensibile, quindi in realtà non rischiavo assolutamente nulla, non ero proprio assolutamente sicuro. Ti ci voglio vedere al Festival di Cannes a fare un certo tipo di, avere un certo tipo di sonorità e vedere soltanto persone infiocchettate che ti ascoltano. È molto più difficile suonare davanti a questo pubblico qui e proporre qualcosa che davvero, come dire, sia staccato dai canoni tradizionali cui siamo abituati in un contesto. Beh, insomma, avere poi dei riconoscimenti da quel pubblico lì infiocchettato, insomma, penso che sia di abbastanza irrilevante, poi almeno per me sarebbe abbastanza irrilevante sapere che cosa ne pensa, mentre invece mi interessa di più questo che tu hai detto a proposito della musica per il cinema. Ti cito: mi piace pensare che la musica che scrivo nei film possa anche vivere di vita propria, senza poi rimanere solo patrimonio di quel progetto, ma che continua a esistere anche oltre. C'è troppa musica che si ascolta al cinema che muore nell'anonimato dei tappeti sonori, della carta da parati musicale. Il cimitero di quella musica è gigantesco. Ecco, allora io ti chiedo, ma come è molto difficile, secondo me, riuscire a far rimanere nel cuore e nella mente un certo tipo di musica strumentale, cinematografica, e di farla vivere al di là della pellicola in cui essa ha una sua vita. Insomma, è molto difficile, secondo me, Teo. Tu pensi di riuscirci a farlo? Non lo so, non spetta nemmeno a me a dirlo, nel senso che no, ma come fai, insomma, come pensi, quali sono gli strumenti che usi per me c'è una cosa fondamentale: a far vivere la tua musica oltre. Io ho bisogno che la musica stia in piedi da sola, sempre, che sia in grado di giustificarsi davanti al mondo, che dica c'è un motivo per cui sono qui. Poi quella musica lì trova una sua via, un dialogo con il film. E questo è un altro percorso, ma prima di quello deve essere qualcosa che sia in grado di stare in piedi con le proprie gambe, altrimenti rischia di diventare soltanto un commento sonoro, quella che in passato si chiamava muzak, la filodiffusione, di cui non me ne frega assolutamente nulla. Ok, io a proposito di questo volevo sentire con voi Gioiellino Denti. Aspetta, non mi ricordo, no. Teo, aiutami, qual è il pezzo, quello con Mara? World Back, da Denti. Allora sì, da Denti, World Back. E questo è uno dei pezzi che secondo me rimangono più, con più facilità, no? Oltre poi la... Beh, questa è una canzone, anche un brano. Esatto, perché non è solo strumentale, è proprio quello che, a cui volevo arrivare nella mia domanda. Eccolo, sentitevelo. Quindi dalla colonna sonora di Denti, erano anni, dicevi almeno 10 anni che non la sentivi questa canzone. E Teo, tu volevi Warbeck, Mara, Usmamo. Ok, qualcosa sul film volevi mettere? No, 2000, diretto da Gabriele Salvatore, è un film geniale, passato così in sordina. Ma neanche tanto, non è vero. Straordinario, che secondo me non è mai più stato bravo come questo film Sergio Urbini. Teo, l'aneddoto di prima mi ha molto incuriosito. Quando ti dicevo ascolti quotidianamente musica, tu mi dicevi che ogni giorno tu ti prendi almeno un quarto d'ora per ascoltare una facciata di un vinile. Questo mi sembra molto molto interessante. Sì, è un esercizio che ha forse anche una sua spiritualità in questo. Però mi piace staccare il telefono e concentrarmi proprio sull'ascolto, che è uno studio anche in qualche modo. Ma è un momento dove stacchi con tutti quanti e sei lì con un disco. E a volte, se c'è anche abbastanza tempo, ascolto tutte e due le facciate di un vinile. E mi piace proprio l'idea del vinile, non soltanto per il suono, ma per quanto ti costringa a essere statico, fermo, bloccato lì. È il contrario della contemporaneità, che io amo molto nella sua portabilità, no? Mi piace, sì, l'idea di poter portarmi la musica ovunque, ed è fantastico. Viaggio molto, quindi poter ascoltare la musica con qualsiasi congegno elettronico è perfetto. Ma è altrettanto perfetto l'ascolto in vinile. Una cosa non esclude l'altra. L'idea di mettere un disco e lasciarlo finire esattamente come è stato pensato, costruito, è un esercizio per me importante. Mm-hmm. Il vinile? Il vinile è nero e ha un buco al centro. Ma può anche essere colorato, ma ha sempre un buco al centro. Beh, rispetto al digitale ha un'altra gamma. Sì, certo, è un altro tipo di, c'è un altro tipo di pensiero sul suono. Mm-hmm. E la musica che viene masterizzata per vinile viene fatta soltanto in quel modo lì, e la stessa cosa poi, cioè in un altro modo succede per il CD e poi in un altro modo ancora per gli MP3. Io non ho assolutamente nulla contro nessun formato, ho adorato il CD perché era una delle cose più pratiche del mondo e anche con una sua notevole qualità sonora, sì, e per certi tipi di musica è ancora imbattibile, però il vinile continua a essere un classico e secondo me, se ha funzionato, perché non deve continuare a funzionare? Questo mi domando. A volte in maniera molto ottusa e rigida chi pensa al progresso va sempre escludendo fette di passato, che invece secondo me sono dei punti, è un fondale il passato per dare ancora più prospettiva a quello che sta succedendo ora, se non sai da dove arriva. Anche se l'analogico è indifendibile, cioè i nastri per registrare i dischi sono stati davvero molto efficaci, poi ovviamente per l'ascolto no. Per l'ascolto in cassetta era un incubo totale, però io e generazioni di miei amici siamo cresciuti in macchina a limonare ascoltando le cassette. Cioè, altra cosa imbattibile, limonare più cassette, perfetto. Va bene, signori miei, qua sono le 16, Attica Blues, sono la metà di Attica Blues, è quasi arrivato, ci stiamo salutando con Teo, vorrei sentire con voi, e se me lo interrompono Attica Blues questa volta mi arrabbio, che lo sapete che non mi arrabbio. Però c'è mai Luca che già si difende, non è nel mio carattere arrabbiarmi mai, perché sono una persona mite e gentile, però vorrei sentire qui avevo pronto il gioiellino, ma scegli tu, sì, chiaramente il gioiellino, che è un film che non mi è piaciuto perché è un po' misogino. Dimmi perché è misogino, mi interessa perché molto. Perché lui è bravissimo, perché La ragazza del lago era bellissimo, però usa tutti questi cliché delle donne, non so, la moglie che sta brava, buona a casa, la escort russa, donna rampante, cattiva e cinica, tutti cliché, e poi li fa diventare pure tutti questi cliché che usa in modo così anche un po' del cazzo, anche le fa essere anche stupide e cretine, e quindi non mi piace la donna raccontata così, però lui è un bravo regista, indubbiamente mi piace la ragazza del lago mi era piaciuto tanto, insomma questo film non mi è piaciuto, però le tue musiche erano talmente belle ed era organizzato bene col suo amico Luca Bigazzi che le ha fatto la fotografia eccetera eccetera, che comunque era un film ben fatto, ma non me ne frega niente, ecco, anche non me ne portava niente neanche l'argomento, il crack Parmalat non mi interessa assolutamente, mentre mi interessa molto farvi sentire questo pezzo bellissimo che Attica Blues non interromperà questa volta, e perché me la fanno sempre questa cosa, Teo, eh? Io metto l'ultimo pezzo, lo arrivo in modo con la metà e fanno partire dai, non è ancora arrivato. Però prima di questo voglio ricordarvi le coordinate per sostenere questa radio libera, indipendente, senza padroni, senza pubblicità, dal 1977, stiamo per compiere 40 anni. Potete sottoscrivere al conto corrente postale 61 80 40 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio Via De Vosci 56001 85 Roma. Ma se non volete andare alla posta e fare la fila, potete fare una sottoscrizione attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info. sottoscrivi, sostieni, ci sono tutte le coordinate per fare una, per dare un contributo PayPal. Non ha importanza quanto voi doniate a questa radio per vivere, per continuare a trasmettere libera, l'unica, ultima voce libera di questa città, che vi fa sentire musica, che fa controinformazione, che fa controcultura, che vi dà un attimo di gioia in queste giornate grigie romane in cui succedono soltanto cose brutte. Ascoltate questa radio, sostenetela, fatelo, è importante per noi e per voi. Grazie Teo. Grazie a voi. Complimenti. Speriamo a presto a questo punto. Beh, abito qui di fianco, quando volete io vengo. Torna Teo. Sai che facciamo? Adesso chiamiamo Elettrodo. Ok, allora il prossimo giro io ed Elettrodo insieme. Dai. Ciao Elettrodo.